Spingo il talento, rimani perplesso, non discutere e senti il mio pezzo. Ti stendo con un pugno secco, adesso ti atterra, avrai più rispetto. Rischio tutto perché do tutto, faccio casino ma di brutto. Tento la fortuna ma non arriva, Cristo il lavoro che fatica. Se vincessi di certo smetterei e mi godrei la vita che vorrei. Funzionerebbe bene, sarà importante, vestirei ogni volta elegante. Mi piace ogni singola sfida e ho un istinto omicida. Alla fine io vinco e tu perdi, chiediti perché e ora rifletti. È così che si fa, questa è vera musica, musica. Il battito che ti dà la giusta adrenalina. Adrenalina. È così che si fa, questa è vera musica, musica. Il battito che ti dà la giusta adrenalina. Adrenalina. Scrivo da impazzire, impazzisci con ste rime. Fammi parlare, dammi il tempo di finire. Non mi riesci proprio a capire, diversa la musica, diverso lo stile. Questo battito ce l'ho nel cuore, un magico suono, mica un rumore. Trovarsi tra amici e parlarne per ore di questa musica, senso di ribellione. La mia generazione, me stessi hobby, e odia come me tutti gli stronzi. Io mi faccio i cazzi miei, tu i tuoi, è facile da capire, eppure non vuoi. Scrivo perché mi piace, perché ne son capace. Vuoi comandarmi ma faccio come mi pare. Ora tu ti chiederai com'è che faccio, semplice perché della legge me ne sbatto. È così che si fa, questa è vera musica, musica. È il battito che ti dà la giusta adrenalina. Adrenalina. È così che si fa, questa è vera musica, musica. È il battito che ti dà la giusta adrenalina. Adrenalina. Adrenalina.